lasciami sognare la tua pelle morbida, voglio accarezzare e finché non avrò anche la sarò sempre sulla tua scia, non puoi fuggire perché sei mia, perché ti voglio, perché mi vuoi, un mondo si apre intorno a noi. Se vorrai crederlo, io sarò l'angelo che non ti abbandonerà quando sul tuo viso non vedrà risplendere dolce il tuo sorriso. E finché non avrò anche l'anima, io sarò sempre sulla tua scia, non puoi fuggire perché sei mia, perché ti voglio, perché mi tutta sarai per me. Per